Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Giovanni Aloi, regista del film L'Enfant Fan, al cinema da martedì 19 ottobre 2021. Ben trovato. Ciao a tutti, ciao a tutti. Come lo presenteresti in breve? L'Enfant Fan è la storia di un gruppo di militari che si trova a sorvegliare le strade di Parigi. Siamo nella Parigi attuale, post attentati del 2015. E questo gruppo di soldati sono dei giovani usciti da classi proletarie che entrano nell'esercito alla ricerca un po' di un posto nella società. Il problema è che presto si accorgono che questo ruolo di militari di strada vestiti come fossero in Vietnam o in Mali, per citare una missione più recente francese, non riescono a capire la loro utilità di fare quel lavoro, e quindi inizia a nascere un sentimento un po' di frustrazione che porterà poi a un finale abbastanza esplosivo. Com'è nato il progetto? Dall'osservazione vera e propria. Io quando è nato il progetto proprio mi è arrivato di fronte agli occhi, perché questi militari sono spesso nelle strade di Parigi e è facile incontrarli. E per me è stato anche abbastanza semplice domandarmi chi fossero queste persone e cosa facessero lì, ma proprio chi fossero queste persone. Sono alla fine dei ragazzetti che sembrano usciti dal liceo con un'arma da fuoco in mano, non so, per dire davanti alla Torre Eiffel o davanti ai monumenti, che ero abituato a vedere con un altro sentimento. Questa presenza, da un certo senso, dovrebbe dare sicurezza a chi li vede, perché è una missione antiterrorismo, ma alla fine a me vedere questi giovani con delle armi non mi dava un sentimento di sicurezza, quanto di maggiore instabilità. E insomma, poi dall'osservazione, anche dal fatto di tante interviste a militari che hanno nutrito poi la creazione della sceneggiatura, è nato poi un progetto di film fiction. Su cosa hai voluto centrare l'attenzione? Ci sono vari aspetti. Sicuramente uno degli aspetti su cui ho voluto focalizzare l'attenzione visivamente è proprio lo sguardo del protagonista, che è Anthony Bazin, un giovane attore francese che tra l'altro ha vinto 3 anni fa l'Orso d'Argento miglior attore a Berlino. E il suo sguardo per me era il punto di partenza, appunto, per osservare e scoprire Parigi e quindi mostrarla poi allo spettatore con gli occhi di un giovane francese che si trova a scoprire Parigi. Dobbiamo sapere che questi militari non vengono da Boulevard Saint-Germain, dei quartieri ricchi della città, ma vengono dalla provincia, quindi il mio protagonista scopre Parigi un po' con gli occhi di un turista, se vuoi, un turista però parecchio ossessionato dalla presenza di un possibile nemico invisibile, e questo nemico invisibile è un altro dei temi su cui ho voluto focalizzare l'attenzione, ovvero sull'attesa di un potenziale nemico, ecco, la ricerca e poi il lavoro propriamente che fanno questi militari. Avete realizzato delle interviste, quindi immagino che questi personaggi siano un po' un mosaico di storie vere. Sì, ci sono delle storie vere, la storia della donna, per esempio, interpretata da Leila Bekhti, che è un'attrice francese straordinaria, è una storia che ci ha raccontato una vera ex militaressa, è ispirata alla sua storia. Altre sono dei momenti, dei frammenti, sì, di un puzzle che poi diventa un lavoro di finzione, quindi ecco, c'è un assemblaggio, una ricerca che ci permette poi, insieme al co-sceneggiatore, di arrivare a una sceneggiatura più credibile a livello di dialoghi, di linguaggio, di movimenti e di tanti aspetti. Com'è stato accolto in Francia, visto che tratta un tema così delicato? Le critiche proprio sono state mediamente molto buone da parte dei critici cinematografici. Non ha creato, ecco, discussioni e scandalo. E quindi questo, dal mio punto di vista, è un peccato, perché più se ne parla male, meglio è. Non ci sono state critiche e discussioni grosse, salvo le militari. Ecco, i militari che hanno visto anche solo il trailer non hanno molto apprezzato. Però, insomma, questo l'avevo messo in conto. In quante sale? In Francia è uscito una sessantina di sale, adesso è da un mese che è in Francia il cinema. In Italia adesso stiamo facendo questo tour di anteprime questa settimana e poi vediamo un po', insieme ai Wonder Pictures che la distribuzione, capiranno come procedere. Ecco. Il film Allons Enfants al cinema da martedì 19 ottobre 2021. Un saluto e un ringraziamento al regista Giovanni Aloy. A presto! Grazie a voi, a presto! Con Eddie Bertozzi di Academy 2, che distribuisce il film France di Bruno Dumont al cinema da giovedì 21 ottobre 2021. Ben trovato! Ciao! Ce lo presenti in breve? France è il nuovo film di uno dei maggiori autori francesi contemporanei, si chiama Bruno Dumont, e ha come protagonista l'attrice del momento, Léa Seydoux, la Bond girl dell'ultimo James Bond, protagonista anche del prossimo Wes Anderson, ma qui è assolutamente la stella e il personaggio attorno al quale gira tutto il film. Interpreta una giornalista famosissima, con il suo programma in prima serata e una vita fra asfalto, jet set, tappeti rossi, fotografi, ma dietro alla giornalista c'è anche una donna che un giorno capisce che non è più in contatto con la realtà, è come se vivesse schermata in questo mondo di flash e di immagini. Cercherà di sfuggire, cercherà appunto di ritornare in contatto con la realtà, cercando un nuovo amore e cercando di capire la vita che gli ruota attorno, ma il meccanismo forse è più forte di lei e la sua fama continua a rincorrerla. Il film quindi diventerà il percorso tragico e comico allo stesso tempo di una donna alla ricerca di se stessa. Come lo conosciamo in Italia, Dumont? France sarà probabilmente l'occasione per molti spettatori italiani di conoscere Bruno Dumont per la prima volta. Lui è già un autore di riferimento in Francia e in Europa. I suoi film sono stati presentati a Cannes nei principali festival mondiali. In Italia finora la distribuzione l'ha un po' ignorato. I cinefili probabilmente lo ricorderanno per film come L'Humanité, Malout. Ha fatto di recente una serie televisiva che è stata un enorme successo d'oltralpe, si chiama Petit Cancan, ma ecco, direi che per gli spettatori italiani sarà una grande e spero gradita sorpresa. Cosa hai apprezzato di questo lavoro? La maniera fenomenale con cui Bruno Dumont riesce a mescolare registi diversi. È un film veramente che parte come una sorta di commedia grottesca, poi diventa un dramma romantico, poi si rituffa nell'ironia della satira, a toni che vanno da quelli del saggio filosofico a quelli del grande film di entertainment. È un film assolutamente patinato, eccessivo, giocoso, ma anche profondamente serio. È uno di quei film che riesce ad intrattenere lo spettatore e allo stesso tempo lasciargli un bagaglio di riflessioni che lo accompagneranno sicuramente nei giorni a venire. È una coproduzione europea, negli altri paesi è già uscito? È una coproduzione europea, fra cui c'è anche l'Italia, coprodotto per l'Italia da Ascen Film con Rai Cinema. In Francia è già uscito con un ottimo riscontro da parte del pubblico. Gli altri paesi sono Germania e Belgio, in cui uscirà a breve. In quante sale in Italia? In circa 40 sale, 40 ottime sale, ci aspettiamo poi che il film riesca a trovare anche altri schermi nelle settimane successive. Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più? Potete trovare tutte le informazioni sul film sul nostro sito www.academy2.it, sulle nostre pagine Facebook e Instagram. Il film France di Bruno Dumont al cinema da giovedì 21 ottobre 2021. Un saluto e un ringraziamento a Eddie Bertozzi di Academy 2 che lo distribuisce. A presto! Grazie a voi e buona visione. Con Bonifacio Angius, regista del film I Giganti, al cinema da giovedì 21 ottobre 2021. Ben trovato! Ben trovati a voi, come state? Tutto bene, abbiamo visto il film, per cui è un piacere parlarne con te, era un po' di tempo che non ci si sentiva. Come lo presenteresti? È una rimpatriata tra vecchi amici in una valle dimenticata dal mondo, una valle western, ed è anche un'aspra critica al maschilismo in tutte le sue forme. Il film è nato come un lampo, mi è saltato un film causa pandemia, quindi stavamo cercando un soggetto che si potesse realizzare con più agilità. Io avevo un soggetto in un cassetto con Stefano De Fenu e abbiamo visto che questo soggetto si poteva realizzare, quindi abbiamo scritto la sceneggiatura in circa 3 settimane e subito abbiamo iniziato la preparazione. Abbiamo fuso una troupe ridottissima fatta da maestranze con alle spalle oltre 60 film, ma anche con giovani che io ho formato nella mia scuola di cinema che ho a Sassari, e ci siamo rinchiusi in un paesino della Sardegna e abbiamo girato questo film, che io non mi vergogno a dirlo, è figlio anche dell'epoca che viviamo, ma non solo, perché noi in questa catastrofe antropologica c'eravamo già e la pandemia l'ha solo amplificata, quindi non è un film sulla pandemia, anche se ovviamente io l'ho detto anche ai miei colleghi che dicevano no, non facciamo film sul Covid, però io gli dicevo anche è impossibile non essere coinvolti da quello che succede nella storia che viviamo. Quindi dicevo, ci siamo rinchiusi in questo paesino e in 3 settimane abbiamo girato questo film che parla di dolore, di nostalgia, di amicizia e soprattutto di quello che è la mancanza d'amore. È un film al maschile dove però la figura femminile è predominante, anche se poco presente. Io non direi che è centrale, ma direi che è tutto, perché questi uomini sono disperati proprio perché hanno una fortissima mancanza della figura femminile e quindi sono misogini, cioè odiano le donne, però in realtà le amano. Quindi noi vedremo nel film un oscillare di emozioni dove c'è questo rapporto di amore e odio verso la figura femminile, nostalgico, dove c'è un personaggio che sogna la donna che non ha mai potuto avere, la suavità, la dolcezza che non ha mai potuto avere. Ed è un film pieno di emozioni che si susseguono una sull'altra. Nel cast abbiamo 5 attori. Me compreso, che faccio uno dei personaggi e mi sono autoflagellato, cioè il personaggio più negativo di tutti. È un film, a me piace definirlo un'opera filosofica scritta da un cialtrone che nel tentativo di un autosabotaggio ha cercato di distruggere quella mascolinità italiota e renderla visibile in tutta la sua fragilità. È un film, dicevamo prima, fuori onda, anche denso di metafore e sorprese. Sì, a noi è piaciuto giocare molto col genere. Infatti abbiamo usato molto il genere western, abbiamo usato il thriller, a volte anche l'horror, proprio perché il mio cinema è contro la noia. Quindi per raccontare questo dolore noi avevamo bisogno del genere. E quindi abbiamo portato in campo le pistole dei film western, le pistolettate, i rimbombi delle pistolettate nei saloon, abbiamo portato quelle atmosfere a volte anche linciane, no? Quando nel finale succederà quell'evento enigmatico. E poi abbiamo portato anche il melodramma, che è quello che poi ho sempre fatto, cioè il melodramma però nel senso alto del termine. Il film I Giganti al cinema da giovedì 21 ottobre 2021, un saluto e un ringraziamento al regista Bonifacio Angius. A presto! Grazie mille, a presto, grazie a voi, a presto. Forza e coraggio, arrivederci. Con Luca Tornatore, regista del film Upside Down, al cinema da giovedì 21 ottobre 2021. Ben trovato! Ben trovato a voi, grazie. Come lo racconteresti a chi ci ascolta? Racconterei di un ragazzo con la sindrome di Down che, come dice il titolo, Upside Down, vuole mettere sotto sopra i pregiudizi, perché incontrerà in una palestra mentre fa della ginnastica un maestro di pugilato e si appassionerà a questo sport e non svelo nient'altro, ma qualche anno fa sarebbe impensabile una cosa del genere, invece è ispirato a una storia vera e quindi vediamo un po' se riuscirà a fare questo incontro di pugilato. Da questa storia vera com'è nata l'idea del film? È nata perché io ho visto un video su YouTube e mi ha emozionato così tanto, perché veramente era talmente pregno di voglia di vivere che ho dedicato 5 anni della mia vita per riuscire a fare questo film. Perché certe volte le persone, come anche in diversi punti del film facciamo vedere, vedono le cose, magari pensano di vederle in maniera, se vogliamo, positiva, nel senso sì, sono persone che vanno aiutate. In realtà questi ragazzi sono ragazzi che uno ci si pone quando li incontra per dare e quando ha finito il loro incontro capisce che ha ricevuto. Per cui è un modo veramente per vedere le cose da un altro punto di vista. Dall'idea alla realizzazione, quali sono stati i passaggi? Uno studio approfondito di un mondo che conoscevo non moltissimo. Io avevo un compagno di classe elementari che si chiamava appunto Paolo, come il protagonista del film, che aveva la sindrome di Down. Mi sono cominciato a documentarmi, ho parlato con diversi ragazzi. Io fortunatamente, quando ero giovane, ho praticato agonismo di pugilato, quindi da quel punto di vista ero preparato. E poi è iniziata la tortuosa strada dei finanziamenti e grazie anche alla cinema siamo riusciti a portarlo a casa. Il tuo protagonista? È un ragazzo che ha partecipato alle Special Olympics, che sono come le Paralimpiadi, solo per disabili mentali, quindi tipo ragazzi con sindrome di Down, autistici, e adesso non so bene quale altre categorie ci siano, e è un campione, ha partecipato a Dubai ed è medaglia di bronzo nel delfino, mi sembra. È un ragazzo molto forte. Parlando di pugilato, una volta Rino Tommasi disse a Tyson avrebbero problemi a impiccarlo perché ha un collo così grande, eppure questo ragazzo ha un bel collo che i cazzotti li sente meno di me di te. Quindi un ragazzo molto forte, era perfetto per la parte. Inoltre non mi ha saputo recitare bene. Tra i vari casting è venuto fuori e ha spiccato, non avevamo dubbi quando l'abbiamo incontrato. Una storia che ti ha commosso su YouTube, su quali aspetti hai voluto centrare il tuo lavoro? Innanzitutto con il rapporto con i genitori, soprattutto col padre, interpretato da Fabio Troiano, una figura che rappresenta un po' la popolazione media, che non sa come comportarsi con queste persone, che è insicura e che spesso quindi sbaglia. E Troiano nel film diciamo che sbaglia tutto all'inizio, per poi capire e credere poi nel ragazzo. Abbiamo costruito quindi la storia di un ragazzo che lavora in un ristorante, come tra l'altro il protagonista Gabriele Di Bello fa veramente, perché lavora in un ristorante, oltre ad aiutare nel ristorante del fratello, e un ragazzo che come molti ragazzi scia, quindi vediamo all'inizio, ma in settimana bianca, ed è molto importante per la descrizione dei personaggi, del rapporto col padre e con la madre, anche il rapporto che ha con il maestro di sci. E da lì poi, quando si entra poi nella palestra, dalla parte descrittiva passiamo propriamente all'azione, e a quel punto tutto è rimesso alla fisicità. La sua voglia di mettere sotto sopra i pregiudizi è resa visivamente con i pugni in faccia, per dirla proprio brutalmente, che era il modo migliore per annullare la fisicità. Il pugno in faccia è proprio quello che ti annulla i connotati della faccia, che subito rimandano a quello che fino anche a 20 anni fa era chiamato mongolismo, e quindi il modo per annullarlo è proprio la fisicità. Che impressioni ne porti, che ne hai ricavato da questa storia, da questa avventura? Io già mi ponevo in un certo modo, se no non avrei fatto questo film, ma il rapporto con questo ragazzo, che mi ha fatto conoscere meglio questo mondo, mi ha fatto veramente capire come tutti siamo, sotto certi aspetti, meno fortunati, nel senso ognuno ha i suoi difetti, le sue problematiche. Quella del ragazzo Down è meno fortunato da un punto di vista, ma più fortunato, come nel caso di Gabriele, che ha tantissimi pregi, è semplicemente un ragazzo come gli altri. Ho imparato che queste persone, come tutte le altre persone, hanno pregi e difetti, né più né meno di altri. E quindi anche a me mi ha messo sotto sopra il mio mondo e le mie certezze. In quante sale? Adesso siamo una ventina e speriamo che il film vada bene. Andatelo a vedere, perché sono sicuro che vi emozionerà. Se ci andate, sono sicuro che le sale aumenteranno. Il film Upside Down al cinema da giovedì 21 ottobre 2021. Saluto e un ringraziamento al regista Luca Tornatore. A presto! Grazie, grazie, a presto, ciao! Mario Rossini, produttore del film Notte in Bianco, Baci a colazione di Francesco Mandelli, al cinema da giovedì 21 ottobre 2021. Ben trovato. Buongiorno, ben trovato a te. Che storia racconta questo lavoro? La storia racconta, tratta dall'omonimo opera di Matteo Bussola e Paola Barbato, che sono nella vera vita marito e moglie, che hanno 3 figlie e 3 cani, e noi ripercorriamo la loro storia romanzata, ovviamente ispirata dal libro, che ha avuto parecchio successo, tradotto anche in Germania, Inghilterra e Spagna, e ci sono degli sketch di vita quotidiana della sua famiglia e del suo rapporto in particolare di lui con le figlie, ed è la storia praticamente di un padre, una madre, lui è un fumettista della Bonelli e lei è una sceneggiatrice, anche scrittrice dei testi di Dylan Dog, e lavora più di notte, e invece Matteo, il marito, si sveglia presto la mattina, fa la colazione per le figlie, le porta a scuola, lui ha tanto tempo da passare a casa perché lavorando da casa sta con le figlie, quindi adora non perdersi neanche un attimo della crescita delle sue figlie. Questo è il leitmotiv del suo blog, dei suoi sketch, del libro. Da lì noi abbiamo costruito questa storia, è nato il progetto, poi è venuta per caso anche la regia di Mandelli, parlando con la sua agente, lei me l'ha proposto, lui aveva scritto da poco un libro sulla famiglia, era diventato padre, quindi abbiamo provato a farlo con lui e con la sceneggiatura di Salvatore De Mola, uno scrittore anche famoso per il cinema, Davide Donatello nel 2017, insomma abbiamo messo in piedi questa compagine autoriale, anche gli stessi autori del libro hanno partecipato alla stesura della sceneggiatura, un po' tutti insomma abbiamo lavorato per renderlo abbastanza delicato e abbastanza fruibile per tutti, insomma è una commedia sulla paternità. Del testo originario cosa avevi apprezzato? Questa leggerezza, questi sketch molto divertenti, lui fa delle domande alle bambine e gli danno delle risposte molto spiazzanti, c'è molto sentimento, l'atmosfera è molto calda e quindi è anche molto tenera fra il padre e le figlie, quindi questo rapporto padre-figlie e anche, vabbè, chiaramente con la moglie. E quindi diciamo era una commedia sentimentale soprattutto, quindi mi avevo apprezzato il tono delle battute, dei dialoghi, perché è profondamente un libro di dialoghi, non è che c'è un'azione complessiva, una trama a tutto tondo come nel classico termine di un plot narrativo. Poi noi l'abbiamo ristrutturata, incentrata e fatta diventare un testo tecnico anche per sviluppare una storia compiuta. Ecco, nella trasposizione su cosa avete puntato? Abbiamo raccolto delle battute originali del libro, quindi il rapporto con lui e le figlie, eccetera. Poi abbiamo raccontato i conflitti che possono nascere anche magari una famiglia che ovviamente lui, essendo meno famoso della moglie, fa più fatica a emergere nella sua attività, perché sai, chi scrive fumetti non è detto che poi diventano tutti famosi o di successo. Quindi c'è anche poi questo, virgolette, riconoscere la maturità del successo dell'altro nel rapporto di coppia. Anche questo è uno dei passaggi fondamentali, nel senso che lui si spende molto anche a fare una vita più familiare, invece lei è più impegnata dal punto di vista professionale, è piena di impegni. Lui per esempio nel film parla con una delle bambine, quella di mezzo che ha 10 anni, e che gli dice: ma mamma lavora sempre di notte e poi esce tutto il giorno, va sempre a incontrare gente. Dice sì, lei è molto impegnata, dice: ma te papà sei sempre qua, ma te non ti può vedere nessuno. Queste battute un po' spiazzanti che ti danno un po' il senso di questo rapporto. Che forma distributiva avete scelto? Abbiamo coprodotto con Rai Cinema, che è il nostro partner, poi abbiamo trovato una piccola coproduzione con la Francia e poi abbiamo avuto dei sostegni dal Ministero dei Beni Culturali come contributo. Andrà su Sky dopo l'uscita cinema e poi andrà sulla rete 1, sulla Rai, dopo la finestra dei 12 mesi, dei 18 mesi. E adesso esce con Altre Storie, che è una distribuzione piccola, in un momento dove escono tanti film e dove il cinema ha problemi e nonostante hanno riaperto al 100%, quindi speriamo appunto che ci sia un po' di passaparola. In quante sale? Una 30ina di sale, poi se il film va bene magari lo implementano. Il film Notte in Bianco, Baci a colazione di Francesco Mandelli al cinema da giovedì 21 ottobre 2021. Un saluto e un ringraziamento al produttore Mario Rossini. A presto! A presto, grazie a te. Con Leonardo Di Costanzo, regista del film Aria Ferma, al cinema da giovedì 14 ottobre 2021. Ben trovato! Salve, come va? Tutto bene, tu immagino anche. Sì, un po' stanco da questi giri da saltimbanchi, però va bene. Come lo presenteresti il tuo lavoro? Ma è difficile, io pensavo in questi giorni che faccio una fatica enorme a parlare di questo film. A me piace molto parlare, in genere mi piace molto parlare dei miei film, che in passato, negli altri film, ho fatto con molta piacere e anche con soddisfazione, perché pensavo e ripensavo al film, mi faceva occasione per ripensare al film. Qui non lo so, sarà il fatto del soggetto, della forma del film, che è stato costruito essenzialmente sul sentire più che sul ragionare, e che quindi si muove su un equilibrio molto instabile, e che io ho quasi timore di interromperlo, questo equilibrio, di romperlo, di farlo pendere da qui o da là la narrazione, che è come se fosse un oggetto costruito proprio per lo spettatore, perché lo spettatore se ne appropri, perciò io ho quasi voglia di sentire che lo spettatore mi racconti, no? È quasi come un terapeuta, no? Che cioè, ho sognato una cosa, che cosa significa questa cosa che ho scritto. Per cui posso parlare un po' di come l'ho fatto, come sempre, cioè sì, attraverso un lavoro enorme di documentazione, con un soggetto che mi è cresciuto dentro pian piano, e che poi attraverso letture, gli incontri, ho scoperto quindi un mondo molto, molto, molto interessante, questo mondo del carcere, parlando con le persone che poi ci lavorano. Io parlo di direttori, di educatori, di criminologi, e ho scoperto un mondo in cui il pensiero sul senso della colpa e della punizione è molto alto, cioè per me è stato molto interessante. Non me l'aspettavo, pensavo che fosse un mondo un po' più fatto di questurini, ecco, mentre invece anche i miei direttori, anche in qualche agente, ho trovato un mondo molto interessante. Ma anche nel dire questo sto prendendo una posizione, perché ho quasi voglia di dire, vedete il film e scrivetemi, fatevi sapere che cosa ne pensate. Come era nato il progetto? Pian piano, come ci dicevo, parlando con le persone, vedendo uno spettacolo teatrale, e l'ho scritto insieme a Bruno e Valia, tenendo conto tutte queste storie, pensieri, riflessioni che poi avevamo incontrato in questa fase di ricerca, quasi come facendo un documentario, la scrittura, mi sono reso conto, proprio quando facevo i documentari, quando si fanno i documentari, uno accumula sequenze sul soggetto che sta facendo, sul personaggio, sulla situazione, le scrivi sui pezzettini di carta e li mette da parte, no? Poi li incolla al muro e dice vabbè, adesso come trovo una drammaturgia su questo, no? E così ha funzionato anche questo film qua. Ovviamente spostando personaggi trovati in carceri diversi, nella finzione, questo è più comodo, dentro il documentario non puoi forzare le situazioni molte volte, mentre questo è stato bello, ed è stato scritto proprio senza avere un piano, senza sapere dove saremmo arrivati. Ci siamo occupati di costruire i personaggi e poi di volta in volta vediamo i personaggi ora dove sono, senza avere un piano prestabilito. Insomma, l'esatto contrario dei manuali di sceneggiatura. A partire dal titolo, dove hai pensato di centrare l'attenzione? Io mi trovavo con questo enorme immaginario che c'è sul carcere, cioè sui film fatti, sui libri, sulle cose scritte. E a un certo punto abbiamo pensato che la cosa che potesse dare uno sguardo, che a me sembrava interessante, più vicino a quello che sentivo di fare, di piazzare più o meno il punto di vista in una zona mediana fra i due corpi che stanno all'interno del carcere, cioè tra i detenuti e gli agenti. La posizione più o meno mediana, perché tutti i film o tutte le cose che abbiamo visto generalmente è da un punto di vista e dall'altro, mentre lì è tentato di farlo più o meno da una posizione centrale, cercando di ascoltare, di sentire le due parti, di essere più vicino alle due parti. E per fare questo, anche nella realizzazione, avevamo bisogno di costruire un mondo che fosse anche non immediatamente realistico, cioè non c'è l'idea di raccontare il carcere adesso in Italia come funziona, cioè non ce l'avrei fatta, è troppo complicato e sarebbe stato come rincorrere la realtà e farsela sfuggire. Bisognava trovare qualcosa che andasse all'origine dell'idea stesso di carcere. Per cui, come spesso succede negli altri film che ho fatto, soprattutto in intervallo, che per raccontare l'adolescenza l'ho dovuta mettere in un momento particolare, come in un momento di sospensione, qui è esattamente la stessa cosa. C'è questo carcere che si sta svuotando, si bloccano i trasferimenti e quindi ci troviamo in una situazione strana, una sospesa, un po' come aspettando che succeda qualcosa, e questo fa sì che tutto l'apparato istituzionale del carcere pian piano si abbassa, non so come dire, e questo permette ai personaggi di entrare in relazione, di rivelarsi. Ma solo dopo che l'istituzione un po' si abbassa, perché sono in una situazione particolare, sono un po' tutti abbandonati, è questo che fa sì che ci si guardi, che ci si ascolti. In quante sale? Per adesso esce in 130 sale, più o meno distribuito tutto il territorio nazionale, vediamo cosa succede in questi primi giorni, poi si vedrà. Aria ferma al cinema da giovedì 14 ottobre 2021. Un saluto e un ringraziamento al regista Leonardo Di Costanzo. A presto! A presto, grazie Federico, grazie. Con Tommaso D'Elia, co-regista del documentario Non rimarrò in silenzio, le verità di Mimmo Lucano. A Roma, al Teatro della Dodicesima, sabato 23 ottobre 2021. Ben trovato. Grazie, grazie a voi. Ce lo presenti? Il film è uscito a dicembre del 2020. Vabbè, racconta un po' la storia di Mimmo e soprattutto entra nel merito di alcune questioni che sono state proprio in questi giorni ribadite da una sentenza veramente incredibile. 13 anni e 2 mesi per sostanzialmente reati amministrativi, e insomma molto grave la faccenda, per cui c'è un po' una mobilitazione dappertutto, neanche qua a Roma, l'abbiamo proiettato a San Lorenzo, lo proietteremo sabato a Spinaceto, il tutto corredato da una sorta di raccolta fondi di questa associazione a buon diritto che ha lanciato questa raccolta proprio per riuscire a finanziare anche le spese legali che ci saranno. Poi oltre i 13 anni e 2 mesi gli hanno dato una multa di 740.000 euro, per cui insomma c'è da raccogliere un po' di solidarietà intorno a Lucano, senz'altro. Il documentario, com'era nata l'idea? È stata una produzione di Arco Iris TV, la quale voleva assolutamente una testimonianza di Lucano. Noi abbiamo accettato di buon grado, sai, sono piccole cose di grande volontariato, insomma. La cosa è nata intorno a questa richiesta e noi abbiamo accettato di buon grado. Siamo stati in Calabria varie volte, abbiamo girato molto, perché poi non è che in Calabria c'è solo Lucano, in Calabria ci stanno molte realtà e anche molto importanti, sia nell'accoglienza che nella formazione professionale degli immigrati, sia negli ambulatori di emergency nella Piana di Gioia Tauro, vicino a Rosarno, insomma ce n'è molta di attività e anche importante in Calabria, di resistenza della Calabria buona, ecco. Mettiamola così, non per essere razzisti, ma insomma il problema dell'Andrangheta è fortissimo, soprattutto nell'area della Locride, quindi con Lucano nel pieno occhio dell'uragano. Com'è strutturato il documentario? Rappresentiamo minimamente alcune realtà, poi affrontiamo un po' una parte storica con l'ex sindaco di Caulonia che ce la racconta un pochino, quindi descrivendoci un po' la Locride, la Calabria in generale, e poi questa testimonianza di Mimmo Lucano, a cui fa, come dire, pandan la testimonianza del vice sindaco oggi di Reggio Calabria, il quale incontra Lucano agli inizi degli anni 90 col primo sbarco di curdi abbadolato, quindi c'è stato anche un lavoro un po' di ricerca storica delle immagini. Ci abbiamo esattamente le immagini della nave Ararat che sono state girate a suo tempo da Med Media, che è una piccola società video di Reggio Calabria. C'erano dei veri e propri tesori d'archivio e quindi noi siamo riusciti a intercettarli, trovarli, usarli. È un lavoro molto interessante, certo, la testimonianza di Mimmo è la cosa veramente molto forte, perché poi lui di fronte a noi ci ha aperto un po' il suo cuore, e poi in quel momento era veramente da solo col processo che incombeva. Comunque in questo momento lo trovate anche sull'home page di Arcoiris TV e il film ha fatto oltre 60.000 download. Quindi diciamo che siamo contenti da un certo punto di vista, perché siamo riusciti a dare un contributo di solidarietà, ecco. Il documentario Non rimarrò in silenzio, le verità di Mimmo Lucano, a Roma al Teatro della Dodicesima, sabato 23 ottobre 2021. Un saluto e un ringraziamento al regista Tommaso D'Elia. A presto. Vorrei sì, dire solamente l'orario, è dalle 17.30 insomma inizia. Con Roberto Ippolito, uno dei curatori della rassegna I Cinema Sale della Vita, da martedì 19 ottobre 2021. Ben trovato. Ben trovati voi, grazie di questa attenzione a questa rassegna molto particolare. Il primo appuntamento è al Cinema L'Aquila, poi si girerà l'intera regione Lazio. Parlacene un po'. Si intitola Il cinema sale della vita, che contiene già in queste parole molte indicazioni, perché c'è un doppio senso sulla parola sale, che ci indica una sostanza, ma anche le sale fisiche che stanno vivendo il proprio rilancio. Siamo in una fase ancora di passaggio dopo tutto quello che si è subito per il Covid. Ecco il punto: i cinema vogliono allontanare ogni segnale di crisi e vogliono riprendere la vita, ecco sale della vita, dimostrando anche una cosa, che i cinema possono essere qualcosa che va perfino oltre la cosa molto importante di cui sono i punti di riferimento, la proiezione dei film. Vogliono essere dei luoghi di incontro nel territorio, di conversazione, ora possiamo dire eventualmente come. Quanti sono gli appuntamenti e come si articoleranno? Gli appuntamenti sono 7 e insieme alla proiezione c'è una conversazione con dei protagonisti che hanno riferimento al film e una conoscenza specifica dei contenuti e anche qui un legame eventuale con il territorio, non necessariamente. Andiamo da quelli di Roma, a Rieti, a Frosinone, a Bracciano, a Trevignano, Bolsena e Gaeta. Quindi ecco, si copre la regione e per un giorno la programmazione normale del cinema interessato viene sospesa e c'è questa serata particolare, una serata in cui si abbina il film con una conversazione. Quindi la sala cinematografica, che ha una grande potenzialità, diventa a tutti gli effetti un luogo di incontro. È di per sé un luogo culturale, ma diventa ancora di più un luogo di incontro, di aggregazione. E d'altra parte lo spazio lo consente ampiamente. Com'è stata la scelta dei titoli? In qualche modo c'è un riferimento al territorio ed è stata una valutazione d'insieme, abbinando dei film che hanno una certa storia con dei documentari. Il primo appuntamento a Cattone, che è il film numero uno di Pierpaolo Pasolini, fu girato al Pigneto e al Pigneto verrà presentato, ovvero al Cinema L'Aquila. In questa occasione la conversazione sarà con Massimo Popolizio, che è il regista che ha portato in scena al Teatro Argentina Ragazzi di Vita, una ottima conoscenza di Pasolini, quindi ecco il legame del territorio al Pigneto c'è la casa di Accattone, nelle pause della lavorazione del film Pasolini era al Barnecci, e quindi c'è quell'atmosfera, quel clima, ed ecco il perché della scelta. Accattone sarà condotto da Franco Montini, il caro del sindacato dei critici cinematografici. Nel secondo caso, La fattoria dei nostri sogni sarà proiettato a Rieti, il cinema di Rieti e il cinema moderno. E questo è un appuntamento che avrà come protagonista Valerio Rossi Albertini, fisico e grande divulgatore scientifico. Sarò io a condurre questo incontro che ci porrà di fronte alla storia autobiografica di John e Molly Chester, fuggiti dalla città per realizzare il sogno di costruire una fattoria seguendo i criteri della coltivazione biologica, e questo ci consentirà di fare molte riflessioni su come possiamo sviluppare la nostra vita proprio mentre oggi si parla tanto di transizione ecologica e, come dice Greta Thunberg, spesso è soltanto un bla bla bla bla. Abbiamo Fantozzi a Bracciano, avremo due protagonisti di grandissimo rilievo al cinema Virgilio. La riflessione su Fantozzi è certamente sulla storia, su una storia che è storia del cinema, ma anche una storia letteraria per due motivi. Il linguaggio adoperato nel film è un linguaggio molto particolare, ma Fantozzi è un film, ma è anche un libro, anzi più film più libri. E la capacità di novelliere, diciamo così, i piccoli raccontini di villaggio era una capacità veramente notevole, di grande acume, di grande profondità, pur nella stringatezza, perché erano racconti piuttosto brevi, però sono particolarmente acuti e assolutamente da seguire. A Trevignano, al Cinema Palma, si ricrea l'atmosfera del nuovo Cinema Paradiso di Fornatore, e qui avremo sorprese musicali molto legate a chi ha composto la colonna sonora, ovvero Ennio Morricone, l'indimenticato e indimenticabile maestro. A Frosinone, al Multisala Dream, faremo un approfondimento veramente unico, nel senso che proporremo la lista di Pasquale Rotondi. Pasquale Rotondi è quel sovrintendente che durante la Seconda Guerra Mondiale mise in salvo le opere d'arte italiane, le opere dei musei italiani, salvandolo dalla guerra. Riuscì a mettere in salvo oltre 6.500 opere, per esempio La tempesta di Giorgione. Rievochiamo una figura importantissima con questo documentario, La vista di Pasquale Rotondi. Riflettiamo, e qui poi con la complicità di chi, se si tratta di figure di primo piano, riflettiamo su quello che ha significato allora e come però questo è importante anche per l'oggi, per la tutela del nostro ricchissimo e meraviglioso, invidiabile patrimonio culturale. È un appuntamento che rende onore a una figura importante della nostra storia recente, ma che ci può dire veramente veramente tanto. A Gaeta abbiamo il film Tutti a casa, in parte girato proprio a Gaeta. In questo caso sarà Franco Montini a condurre, la lista di Pasquale Rotondi sarò a condurre io. Siamo i tre curatori, Franco Montini e io, Roberto Ippolito e Claudio Giustini, al quale è affidata la conduzione dell'incontro di Trevignano con Nuovo Cinema Paradiso. Ultimo appuntamento, quello di Bolsena con l'Armata Brancaleone, e qui entriamo nel Medioevo, un Medioevo che ha diverse cose da raccontarci in un modo estremamente particolare, divertente, e questo ci dà l'opportunità di dialogare in sala su quello che è stato il Medioevo, trattandolo con leggerezza ma anche con una possibilità di conoscenza storico-culturale. A Bolsena siamo al cinema moderno. La rassegna I cinema Sale della Vita nella Regione Lazio a partire da martedì 19 ottobre 2021. Un saluto e un ringraziamento ad uno dei curatori, Roberto Ippolito. A presto. Sì, non ho detto, e saluto tutti, che l'organizzazione dell'ANEC, l'Associazione degli Esercenti Cinema, con il sostegno della Regione Lazio. Grazie di tanta attenzione.